24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Paolo Piacenza, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le preoccupazioni europee per una nuova nube di cenere lavica proveniente dall'Islanda, in evidenza anche il Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione che ha approvato sanzioni contro Siria e Bielorussia, quindi l'ok al lancio dei primi satelliti del sistema europeo Galileo. Per la crisi, occhi puntati su Grecia, Italia e Spagna, mentre le borse europee archiviano una giornata segnata da forti cali. Infine, prima dello sport, la videoconferenza del Presidente della Repubblica Italiana Napolitano con gli astronauti italiani dell'Agenzia Spaziale Europea ESA, imbarcati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Partiamo dunque dalle notizie dall'Islanda. La nube di cenere lavica questa volta arriva dal vulcano Grímsvötn. Spazio aereo chiuso in Islanda e Groenlandia. Le ceneri vulcaniche ingrigiscono il cielo di primavera. La testimonianza della giornalista islandese Thora Arnoldsdottir. Per dire la verità è come stare su un altro pianeta. La cenere è denso, è come una nebbia molto densa. Poi c'è anche vento e quindi c'è... Adesso che sono le 10:30, in primavera in Islanda dovrebbe essere sole, tutto verde e chiaro, invece è come in mezzo alla notte, cioè è buio. La paura fondata è che la coltre ricopre i cieli europei, mandando in tilt il traffico aereo. Daniele Izzo, del centro Epson Meteo. Che le correnti si dovrebbero disporre da nord-ovest e quindi la nube potrebbe essere trasportata in direzione soprattutto della Scozia. Da giovedì il rischio potrebbe diventare concreto anche per la Francia e la penisola iberica. Per l'Italia al momento non si prevedono problemi. Paola Nania, Radio 24, il Sole 24 Ore. Ora a Bruxelles, dove si è tenuto il Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea. We also today focused, of course, on... La voce che sentite è quella dell'alto commissario per la politica estera dell'Unione, Catherine Ashton, che ha comunicato la decisione di adottare alcune sanzioni verso l'establishment di paesi come la Siria e la Bielorussia. Bando dei visti e congelamento dei beni per il presidente siriano Assad e per altri 9 esponenti del regime alla luce della continua repressione contro la popolazione civile. Colpita anche la Bielorussia, dove si è allargata di altri 13 nomi la lista degli esponenti del regime di Lukashenko colpiti da sanzioni per il trattamento nei confronti delle opposizioni. È stato fissato per il 20 ottobre prossimo il lancio dei primi 2 satelliti operativi del sistema globale di navigazione satellitare Galileo dell'Unione Europea. Lo ha annunciato il vicepresidente dell'esecutivo europeo Antonio Tajani, l'intervista a Tajani di Jacopo Matano. Una grande sfida che non riguarda soltanto il cielo, guarda soprattutto la Terra, vale a dire che attraverso i satelliti, 30 satelliti che faranno parte del sistema Galileo, noi daremo tantissimi servizi ai cittadini dell'Unione Europea in diversi settori, dai trasporti, alla lotta al cambiamento climatico, all'agricoltura. Ecco, il 20 ottobre il lancio dei 2 primi satelliti, come proseguirà il programma? Il programma prosegue con il lancio di altri 2 satelliti nel giro dei successivi 5-6 mesi e poi fino a 18 satelliti entro il 2014. L'altra buona notizia è che al Salone Aeronautico delle Bourget fra qualche settimana firmeremo gli ultimi 2 contratti e grazie alla cooperazione tra Commissione Europea, Agenzia Spaziale Europea e Industria siamo riusciti a ridurre i costi previsti, vale a dire con i 3,4 miliardi di euro che abbiamo a disposizione per il progetto Galileo potremmo acquistare altri satelliti. La crisi economica ha chiuso la sua fase più dura, ma restano gli effetti su molti paesi europei. In Spagna prosegue la protesta dell'indignato all'indomani delle elezioni amministrative e la bocciatura del premier Zapatero. Alfonso Botti, professore dell'Università di Reggio Emilia e condirettore della rivista Spagna Contemporanea, al microfono di Cristina Carpinelli. Anche se il terremoto era annunciato, la realtà è che cambia la mappa politica della Spagna. Durante le crisi economiche succede sempre che chi è al governo perda consensi, ma in questo caso la sconfitta è andata ben oltre i costi previsti e questo perché io credo Zapatero ha tardato a riconoscere la gravità della crisi e ad adottare misure adeguate. Secondo lei quanto ha pesato in questa tornata elettorale anche la rivolta degli indignati? Ma è difficile dirlo perché bisognerebbe avere un quadro completo dei risultati. Certamente non ha avvantaggiato il PSOE e indirettamente ha avvantaggiato il Partito Popolare. Quindi diciamo a pesare soprattutto è stata la crisi. Sì, senz'altro, questo senza ombra di dubbio, perché 5 milioni di disoccupati e quasi il 45% di disoccupazione giovanile nella fascia sotto i 25 anni è un dato drammatico che rende la realtà spagnola diversa da altri paesi dell'Unione, e questo è evidente che andava incontro a delle conseguenze sul piano politico ed elettorale. Anche l'Italia ha le prese con gli effetti della crisi, la fotografia 2010 dell'Istat. Finita l'emergenza recessione vera e propria da oltre un anno, gli italiani restano alle prese con le conseguenze pesanti della crisi e il prezzo maggiore lo pagano i giovani, le donne e il Sud. E questa in sintesi la fotografia dal punto di vista economico-sociale scattata al nostro paese dall'Istat. Mezzogiorno, il calo dell'occupazione è un problema che si aggiunge ai problemi. 280.000 posti persi in un anno, però secondo l'Istat sono un brutto colpo. Solo al centro Italia tuttavia l'occupazione ha tenuto, perché anche al nord è scesa. Giovani, uno su cinque a questo punto non studia e non lavora, un fenomeno di apatia obbligata che rende la struttura sociale italiana simile sempre di più a quelle dei paesi nordafricani e della Spagna, dove sono scoppiati moti di rivolta. Donne, infine, e qui i dati sembrano indicare un ritorno al passato, con quasi 1 milione di donne che dopo la gravidanza hanno perso il lavoro, perché oltre a badare ai figli le donne curano sempre di più anziani e malati. Quasi 2/3 delle ore totali di assistenza pesa infatti sulle loro spalle. Alessio Maurizi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Infine la Grecia, il primo ministro Papandreou ha presentato un aggiornamento del piano di intervento sui conti pubblici. La pressione della Troica, UE, BCE, Fondo Monetario, la pistola sul tavolo, come l'ha chiamata il quotidiano greco Taneo, ha funzionato. Il governo di Papandreou ha deciso di varare misure di austerità aggiuntive per 6 milioni di euro, i cui dettagli verranno resi noti più avanti. Di accelerare sul piano di privatizzazioni da 50 miliardi di euro. Atene venderà subito la società di telecomunicazione, la Post Bank, due porti e l'acquedotto di Salonicco. Inoltre, il Ministero delle Finanze ha deciso di varare un fondo sovrano per le privatizzazioni. Papandreou ormai non ha più tempo. Domani incontra i partiti di opposizione per trovare unità nazionale su questo piano, che è veramente l'ultima spiaggia, altrimenti la Grecia rischia il tracollo e il ritorno alla dracma. Vittorio Gold, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le borse, la giornata sui mercati europei è stata caratterizzata dal segno meno. Lunedì pesante per le borse europee, appiedate dai timori sul debito greco e dalle preoccupazioni degli operatori per l'economia spagnola e per quella italiana. Così ieri Parigi e Francoforte hanno ceduto il 2%, Londra l'1,89%, mentre a Milano c'è stato anche l'effetto dello stacco cedole che ha pesato per l'1,9% sul paniere principale. Così il FTSE MIB ha ceduto il 3,32% e lo share il 3,18%. Tra i maggiori ribassi da segnalare c'è quello di Intesa San Paolo nel primo giorno dell'aumento di capitale da 5 miliardi di euro. Il titolo di Cadesas ha lasciato sul terreno il 2,8%, arrivando a quota 1,69 euro, mentre l'aumento di capitale è fissato a 1,39 euro. In controtendenza invece l'Automatica, più 1,21%, che ha recuperato terreno dopo il meno 4% di venerdì e oggi ha staccato una cedola in azioni gratuite. Ceo Condina da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, in videoconferenza ha parlato con i due astronauti italiani dell'Agenzia Spaziale Europea ESA presenti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ecco un passaggio del dialogo a distanza tra Paolo Nespoli e Napolitano. Venezia, tutti i punti più belli del Vesuvio, tutti i punti più belli dell'Italia e del mondo, ma c'è anche questo colpo d'occhio generale, questa idea che ci fa vedere questo pianeta bellissimo da un lato e dall'altro parte, a parere mio, anche fragile. Si vede questa sottile striscia di atmosfera sottilissima, che è quella cosa che ci differenzia da altri pianeti come Marte o dalla Luna. Dobbiamo sicuramente stare attenti a quello che facciamo, a come la trattiamo questa madre terra. Sì, credo che il primo impulso che viene da queste rappresentazioni è precisamente l'impulso ad occuparci seriamente della salvaguardia dell'ambiente. Lo sport e la nube vulcanica fa paura anche al Barcellona, che sabato a Londra si giocherà la Champions League contro il Manchester United. I catalani, che già lo scorso anno furono costretti a un faticoso viaggio in pullman per la semifinale d'andata a Milano poi persa con l'Inter proprio a causa delle ceneri sollevate da un altro vulcano islandese, sarebbero ora intenzionati a partire per Londra già oggi. Per il ciclismo, dopo la giornata di riposo, riprende il Giro d'Italia con lo spagnolo Contador sempre in maglia rosa, in programma la cronoscalata da Belluno a Nevegale di 12 km. E mezzo. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un saluto da Paolo Piacenza. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.